della città poco utilizzati e che invece spesso sono al centro dei quartieri, quindi il parco di Via Statilia, che è un luogo centrale dell'Esquilino, e il polo ex fienile che si trova al centro di Tor Bella Monaca. Ci piaceva anche collegare questi due punti così distanti, uno del primo municipio e uno del petto. E abbiamo scelto sia dei testi classici, quindi supplici persiani e coriolano di Shakespeare, abbiamo scelto tra l'altro la riscrittura di Bertolt Brecht, e testi moderni, contemporanei come Ballard. Tutti questi quindi sono fruibili in cuffia, il pubblico ha le cuffie, gli attori sono microfonati e il pubblico quindi percepisce sia la musica che i testi e può muoversi intorno allo spettacolo e vederlo da dove preferisce, insomma. Come saranno strutturate queste sei giornate? Partiremo dall'ex fienile, che è un luogo centrale all'interno di Tor Bella Monaca del terzo municipio, con uno spettacolo che sono le supplici, che è un testo incredibile che ha più di 2000 anni e che parla di una serie di donne che arrivano ad Argo e chiedono accoglienza, di donne africane che scappano e chiedono accoglienza alla città di Argo. E quindi è un testo che, rileggendolo oggi, ha delle battute che sembrano di oggi, è un testo assolutamente moderno e quindi ci piaceva farlo a Tor Bella Monaca. Sabato proseguiremo con Condominium di Ballard, dove inviteremo il pubblico. Condominium parla di condominio del futuro e quindi ci piaceva portare il pubblico da Via Statilia dentro Spin Time per un pezzo di questo viaggio in cuffia. Spin Time è il palazzo di Santa Croce occupato in cui vivono 180 famiglie, in cui noi lavoriamo da anni in compagnia, e quindi il pubblico lì potrà muoversi anche dentro questa realtà. Domenica saremo nel parco di Via Statilia con i persiani, anticipati da una visita della sovrintendenza che spiegherà la storia di questo piccolo parco, perché è un parco molto piccolo ma pieno di storia. C'è sotto il parco, c'è un bunker chiuso della Seconda Guerra Mondiale, c'è un pezzo di acquedotto, quindi è un parco che sembra assolutamente anonimo ma che in realtà è pregno di storia. Il lavoro di questo festival è anche un lavoro che vuole valorizzare questi pezzi di città, quartieri complessi come l'Esquilino, che è un quartiere pieno di comunità ma slegate l'una dall'altra, quindi vorremmo che a lungo andare, nelle prossime edizioni, questo festival ricostruisse dei punti nevralgici che potrebbero essere punti nevralgici della comunità dentro il quartiere del primo municipio e del tempo. E poi settimana prossima ancora tre spettacoli, sempre tra Via Statilia e il Polo Esquilino di Tor Bella Monaca. Ci racconti anche un po' l'esperienza di Loco Teatro? Siamo una compagnia che fa quello che viene definito teatro di figura, cioè lavoriamo con gli oggetti, con le strutture e col movimento scenico. Siamo una compagnia che ha 8 anni di attività. 5 anni fa siamo entrati per trovare all'interno di Spin Time e da lì ci siamo molto legati a questa esperienza abitativa e culturale, portando avanti la rigenerazione dell'auditorium e la rigenerazione di una sala prove in cui provano 4-5 compagnie al giorno. Da quest'anno siamo una compagnia riconosciuta dal Ministero e lavoriamo appunto sul teatro d'immagine, sul teatro di manipolazione. Per la vostra esperienza e anche per il festival ci dai riferimenti web? C'è la pagina Facebook di Loco Teatro, dove c'è il link all'evento di Teatro in Cammino, dove ci sono tutte le date e tutti gli orari. Insomma, è importante per noi prenotarsi attraverso la mail che il pubblico trova sull'evento, perché abbiamo un numero di cuffie prestabilito. Il Festival di Spettacoli Teatrali in Cuffie, visite guidate, teatri in cammino, comunità plurali tra centro e periferia, a Roma, al Parco di Via Statilia e al Polo ex fienile di Tor Bella Monaca, dal 26 al 28 novembre e dal 3 al 5 dicembre 2021. Saluto e un ringraziamento al regista e attore Roberto Andolfi. A presto! Ciao a tutti e a tutti, buona giornata! E siamo all'agenda della settimana teatrale con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone, raccontaci un po' di cose. Eccoci, buon pomeriggio a tutti. E dunque questa settimana abbiamo un po' di spettacoli da seguire e andiamo a vedere quindi subito dove ci porta il nostro furgoncino del teatro della settimana. Intanto ci porta allo spazio Rossellini, dove questa sera alle ore 19, quindi tra un po', Simone Perinelli, Le vie del Ful, presenta la sua regia e drammaturgia, un progetto che si chiama Anima. Sono cinque paesaggi, così vengono definiti. È un testo composto per cinque capitoli diversi legati da un filo rosso con l'intento di esplorare i paesaggi che l'anima disegna dentro ogni essere vivo è venuto al mondo, come ci fosse appunto una voce per ciò che non si può dire, che si ascolta, no? All'interno di noi mentre affrontiamo delle questioni che riguardano un po' la vita umana in tutte le sue sfaccettature. Quindi molto interessante questo progetto di Simone Perinelli questa sera alle ore 19, data secca, unica, ma poi magari ci saranno altre possibilità più avanti, per cinque paesaggi, appunto Anima. Andiamo anche al Teatro Fortezza Est, perché dal 1 al 5 di dicembre viene presentato Gialli a Torpigna, ovvero sia Pasticciacci Romani. Prende in prestito per appunto uno spettacolo giallo il titolo di un grandissimo giallo romano che appunto è per Pasticciaccio Abruzzo Regione Lunara di Emilio Gadda, e Gialli a Torpigna dal 1 al 5 dicembre porta appunto in scena questi racconti polizieschi noir che però appartengono al quartiere. Ci saranno Il venditore di rose di Dario Sardelli, Il cinese di Andrea Cotti, appunto ambientati a Torpignattara, poi altri testi, Torpignattara di Stefania Ficacci e quel pasticciaccio appunto di Gadda, che sarà lo spunto per uno sguardo sull'Italia fascista degli anni 30 e 40. Questo è il lavoro che vedremo a Fortezza Est questa settimana, Gialli a Torpigna, 1-5 di dicembre. Per quanto riguarda invece il Teatro Sala Umberto, da questa sera fino al 5 dicembre torna in scena uno spettacolo scritto e diretto da Luana Rondinelli, che da anni gira per i teatri italiani, ovvero sia Tadrarite, questo spettacolo in italiano, Pipistrelli, lingua siciliana. E abbiamo in archivio. Esattamente, bravissimo, con la stessa Rondinelli, Claudia Potenza e Donatella Finocchiaro, che sono reduce anche da successi cinematografici. Sala Umberto, 30 novembre, 5 dicembre, con questa pièce contro la violenza sulle donne, che racconta appunto il dramma di questa storia vera, con queste donne, succubi, schiave, prese alla gola dalla morsa del destino che accomuna tutti e tre i loro destini. Questo è il tema di Tadrarite che andremo a vedere appunto Sala Umberto, 30 novembre, 5 dicembre. Andiamo al Teatro Le Maschere, perché questa sera debutta lo spettacolo Momo e la città senza nome, scritto e diretto da Giulia Bartolini, che è ispirato al libro scritto da Michele Ende che si chiama Momo, ed è un libro che solitamente si consiglia ai ragazzi, e quindi insomma è uno spettacolo che si può far vedere anche ai ragazzi, io suppongo. Momo nel 2150 aveva 10 anni, una migliore amica, una prima colta dei nemici, una guida, una guerra da vincere e un destino da portare a compimento per restituire il tempo agli uomini. Questo ci racconta prima assoluta Giulia Bartolini, Teatro Le Maschere, 30 novembre, 5 dicembre. E poi lo spettacolo replicherà Tor Bella Monaca, ma ne parleremo più avanti. In scena ci sono 6 attori. Beh, insomma, Momo è la città senza nome. Poi rassegna battiti al Teatro Furio Camillo, perché una nostra vecchia conoscenza, dal 2 al 5 dicembre, Roberta Castelluzzo è la regista di questo Spaghetti, uno spettacolo appunto che dirige e viene portato in scena al Teatro Furio Camillo, che un po' diciamo è il luogo della sua storia. Siamo nel 1920, gli anni delle importanti migrazioni degli italiani oltre oceano, valigie piene di storie, di speranze, di ricordi, di malinconia e anche di pasta, perché insomma sappiamo, no, dei pacchi di spaghetti, i pacchi di pasta infilati nelle valigie degli emigranti verso le Americhe. E quindi un lavoro Spaghetti che ci riporta indietro nel tempo di un centinaio d'anni. Roberta Castelluzzo, 2-5 dicembre, Teatro Furio Camillo, per la rassegna Battiti. Andiamo anche al Festival del Teatro Patologico, che torna a farsi vivo, il Teatro Patologico, con Appese a un filo, 3-4 dicembre, 2 repliche per questo spettacolo interamente dedicato al tema del femminicidio, l'ultimo lavoro appunto di Dario D'Ambrosi, regista del Teatro Patologico, il teatro che si trova su Via Cassia e dove da un bel po' non andavamo, insomma non lo ricordavamo. Il tema del femminicidio, insomma, è una piaga dei nostri giorni, e D'Ambrosi fa un'analisi psicologica dei pensieri, delle sensazioni che passano nella mente di un uomo che arriva ad uccidere la propria donna. 3-4 dicembre, Teatro Patologico. Poi andiamo al Teatro 2, da questa sera fino al 12 dicembre, per questo lavoro firmato dalla compagnia Le Mustache, L'ombra lunga del nano, lo spettacolo di quest'anno. Io vidi la storia di Ciccio Speranza, sempre firmata da questa compagnia, che si sta segnalando insomma come una compagnia notevole da seguire. Ludovica Dauria e Claudio Gaetani sono in scena, il testo di Alberto Fumagalli. L'ombra lunga del nano racconta la storia di Olo e Neve, marito e moglie. La loro vita è tragicamente peggiorata, non mantiene le aspettative che avevano nutrito sul loro rapporto di coppia. Lui è affetto da nanismo e da grande gelosia. Lei è una donna ingenua, dilaniata dal tempo che corre e dall'insuccesso della sua vita, una donna repressa, moglie insoddisfatta. E nel loro rapporto chiaramente ci sono gli elementi per riflettere sulle relazioni, sul rapporto di coppia di questi tempi, e quindi assolutamente da non perdere questo spettacolo firmato Le Mustache, L'ombra lunga del nano, al Teatro 2 dal 30 novembre questa sera fino al 12 dicembre, quindi ne parleremo magari anche più avanti, chissà. Intanto ti riporto al Teatro di Roma, perché fino al 13 dicembre sta continuando, con date insomma da vedere, la recita a memoria della Divina Commedia da parte di Giorgio Colangeli, che insomma abbiamo anche in archivio come che registrazione. L'impresa fantastica dell'attore Colangeli, che questa volta fa insomma edizione unica della commedia in 9 appuntamenti fino al 13 dicembre al Teatro Argentina, quindi sul sito del Teatro di Roma per andare a vedere le specifiche, con non solo l'inferno ma anche Purgatorio e Paradiso, quindi la completezza della commedia dantesca. Poi andiamo al Teatro Ardu Studio, perché questa è la settimana dove Onda d'Urto Teatro con War Experience, quindi un'esperienza della realtà virtuale, con questa esperienza immersiva con suggestioni sensoriali, presenta questo lavoro che si chiama C'era una volta, con questa competenza particolare tecnologica, digitale, per questa esperienza suggestiva, quindi assolutamente da non perdere per chi insomma voglia perdersi nell'immaginario fiabesco della grande tradizione di Lewis Carroll, tra i fratelli Grimm e Hans Christian Andersen, attraverso appunto la percezione della realtà virtuale. Al Teatro Ardu Studio 2-5 dicembre per questo lavoro. Teatro Biblioteca Quarticciolo, ben due lavori. Patrizia De Bari di Giardino Chiuso presenta 3-4 dicembre una drammaturgia di Tuccio Guicciardini che si chiama Inverno, e che si addentra nelle suggestioni legate a questa stagione della natura e la mette in relazione ai cicli della vita, quindi un rapporto tra l'inverno dell'uomo e l'inverno della natura. Il 3-4 dicembre, Teatro Biblioteca Quarticciolo alle ore 21, ma il 5 di dicembre torneremo al Teatro Biblioteca Quarticciolo per il ritorno a Roma di uno spettacolo importante come Middlesex di Motus, con Silvia Calderoni, la regia di Enrico Casagrande, di Nina Nicolò, appunto i Motus, una sorta di inno alla libertà di divenire, la libertà di esplorare i confini del proprio corpo, del colore della pelle, della nazionalità, della territorialità. Tutto questo nell'ambito del Drag Me Up Queer Art Festival, che si svolge al Teatro Quarticciolo e quindi si conclude con questo spettacolo domenica 5 dicembre alle ore 21. Al Teatro di Roma, al Teatro Torlonia, invito a vedere 3-4-5 dicembre Il Miracolo della Mula, uno spettacolo per bambini e con la direzione di Gigio Brunello. Siamo nel bel mezzo di una tempesta. Il Vescovo Simplicio attraversa il bosco a cavallo della sua mula Santuzza e si rifugia sotto un grande albero di mele, famoso per non aver mai dato un frutto. Che rapporto ci sarà tra il Vescovo Simplicio, il giovane Poldino, la mula Santuzza e questo albero? Lo andremo a scoprire al Teatro Torlonia 3-4-5 dicembre. Ancora tre appuntamenti. Il primo di cui parlare è sicuramente Teatro di Roma, il Vaudeville, Teatro India, 1-12 dicembre. Roberto Rustioni porta con la sua drammaturgia e l'aiuto, la drammaturgia di Chiara Boscaro, una drammaturga ormai di nome, una drammaturgia importante, una riscrittura libera e vitale da Eugene Labiche, maestro della costruzione di equivoci e intrecci inarrestabili. I personaggi vengono trasportati in situazioni sempre più deliranti, quindi il ridicolo, l'assurdo della condizione umana in questo spettacolo Vaudeville dal 1 al 12 dicembre. Poi, come promesso, secondo degli appuntamenti, racconto e piccole visioni svelano qualche segreto dei quaderni di lavoro di Daria De Florian e Antonio Tagliarini. 3, 4, 5 dicembre la compagnia De Florian Tagliarini torna a Roma con quaderni, appunto. Antonio Tagliarini alle ore 20 si guiderà attraverso i materiali originali delle scene che hanno portato allo spettacolo reality, quindi tra autobiografie, passioni letterarie, divagazioni, ossessioni, e Daria De Florian negli stessi giorni ci porterà all'interno dei quaderni, alle ore 21, che hanno portato allo spettacolo Sovrimpressioni. Questo accadrà al Teatro delle Carrozzerie Not 3, 4 e 5 dicembre, da non perdere questo appuntamento, così come forse il lavoro della settimana, il debutto della settimana, mentre ricordiamo che al Teatro Argentina va ancora in scena per questa settimana l'Amleto di Giorgio Barberio Corsetti, al Teatro Vascello arriva al debutto romano, appena stato in scena a Napoli, Tavola Tavola, Chiodo Chiodo, fino al 5 dicembre. Da questa sera Lino Musella sarà in scena con l'aiuto di Tommaso De Filippo attraverso gli appunti, la corrispondenza epistolare, i carteggi con le istituzioni, con amici, parenti e altri operatori di Edoardo De Filippo. Uno spettacolo che quindi attraversa la presenza di questo grande del Novecento teatrale, non solo nella sua Napoli, nel Teatro San Ferdinando, che appunto ricorre all'interno di questi carteggi, il teatro che lo stesso Edoardo ha voluto ricostruire proprio come diceva il suo tecnico Peppino Mercurio, il suo macchinista, che appunto con lui ha costruito questo, il palco del San Ferdinando, Tavola Tavola, Chiodo Chiodo, cioè una cosa per volta, un pezzo per volta, questo teatro lo riportiamo su. Quindi forte è la metafora, anche rispetto metafora politica rispetto al teatro di questi tempi, che non gode sicuramente di grande fortuna e di grande futuro, ma staremo a vedere. Quindi dal 30 novembre questa sera fino al 5 dicembre Lino Musella, che è uno dei maggiori attori italiani, con Tavola Tavola, Chiodo Chiodo, sul palco del Teatro Vascello. E questo è tutto. Ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.